Sabor. Narcisista in azione non ha mai paura. Sempre un'arma sicura. Chissà se seguendoti vivrei il fascino del mistero. Osservo in volo un aereo, un altro cambio di stagione non mi fa paura. Sempre un'arma sicura.